Sura della Sommergente, capitolo 88 del sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 26 ayat ed è scesa dopo la Sura 51, Az-Zariyat. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e il clementissimo, ti è giunta la notizia della Ghashia, la sommergente l'uomo nell'angoscia? Quel giorno ci saranno facce umiliate, contratte per lo sforzo di trascinare catene e sofferenti. Arrostiranno i dannati in un fuoco incandescente, berranno da una sorgente caldissima, non sarà dato loro altro cibo se non da ria, un cibo che non nutre e che non toglie la fame. Quel giorno ci saranno facce gioiose, di uomini soddisfatti delle loro azioni, accomodati in un giardino elevato, nel quale non udranno vaniloquio, nel quale c'è una fonte di acqua corrente, nel quale ci sono letti sollevati, coppe di bevande paradisiache a portata di mano, cuscini allineati e zerbini distesi. Non guardano i cammelli come sono stati creati, i cieli come sono stati innalzati, i monti come sono stati eretti e la terra come è stata resa pianeggiante? Ammonisci gli uomini, perché tu sei un ammonitore, tu non sei responsabile di loro, perciò colui che girerà le spalle e si rifiuterà di credere, Allah lo punirà con il più grave dei castighi. In verità il ritorno è a noi, e poi in verità noi faremo i conti con loro.